visto andare via tutti gli amici. Pian piano ad uno più felici. Li ho visti andare via su un filo teso. In equilibrio sopra un fuoco acceso. E io sto qui seduto nei miei jeans, disperso dentro agli angoli di un film. E io sto qui incerto tra i miei no e i miei sì. E io sto qui seduto nei miei jeans. Ho visto tanta gente scivolare, sicura come ghiaccio verso il mare. Sembrava conoscessero il segreto del passo di chi non torna più indietro. E io sto qui perso dentro agli angoli di un film. E io sto qui in cielo.